faccia che fuggi da questa terra dove la luce non c'è. Luce che corri su questa spiaggia, portami con te. La vera luce non brucia, la vera luce non cola. Luce che balzi da questa secca come un'eterna fiumana. La vera luce consola, al buio non ti abbandona e accende sospiri più grandi dell'onda, accoglie lamenti di un cuore che affonda. Risponde, il vento confonde, nel tempo ci sbatte.